Una sera tardi il vento, che aveva continuato a crescere per tutto il giorno, la chiamò fuori. Laura salì in cima al Cabey Ridge, oltre le rovine del mulino a vento che sbatacchiava le sue pale rotte. Quando raggiunse il crinale si fermò, mantenendo a fatica l'equilibrio. Sentiva il vento che si gettava a capofitto verso la terra, mentre alta sopra di lei la luna era a caccia, circondata da una muta di segugi bianchi e neri che vagavano per il cielo. Luna, vento e nuvole inseguivano una preda invisibile e il vento frugava fra gli alberi. Dalla cima della collina Laura sentì i boschi circostanti gridare ognuno con la propria voce. Le folate si esaurivano, lasciando i faggi palpitanti come grotte marine da cui si era appena ritirata l'onda, mentre il boschetto di abeti sembrava ripetere all'infinito una cantilena magica. Mentre ascoltava quelle voci, gliene giunse all'orecchio un'altra, il lontano pulsare di un treno merci che saliva faticosamente su per un ripido pendio. Lo sedeva appena, era più una sensazione che un suono, ma con la sua cadenza regolare dominava tutte le altre voci. Sembrava avvicinarsi sempre più, pervaderla come il sangue che le pulsava nelle tempie. Cominciò a sentirsi indifesa e esposta alla possibilità di un terrore travolgente. Rimase in ascolto, cercando di non pensare. Sebbene il rumore provenisse da un comune treno merci, non c'era ragionamento che potesse far svanire quel terrore. Non le restava che arrendersi, concedergli tutta la sua attenzione se voleva salvarsi. Era un suono malvagio. Esprimeva qualcosa che da sempre gli uomini rifiutavano e condannavano, qualcosa che tremava a nottetempo nel buio dei crepacci sulle colline. Forte, isolato, improvviso, ogni ansito del motore violava le facoltà della sua mente. Il vento, la luna e il branco di nubi in corsa non erano gli unici cacciatori quella notte. Qualcos'altro batteva le colline, lento, inesorabile, sicuro della preda. Ad un tratto Laura si ricordò dello scalo merci di Paddington e tutti i suoi pensieri si radunarono di nuovo come una muta di segugi che hanno trovato la traccia. Scorrevano sempre più veloci, strinse le mani e pregò come quando da bambina pregava sul terreno di caccia. Nello scalo merci di Paddington si era quasi imbattuta nella pista che conduceva alle segrete regioni della sua anima. Era una terra desolata, avvolta nella penombra, in cui lei camminava sola. Ne era padrona, come era padrona del terrore che errava sui campi deserti e si aggirava intorno a lei. Era desolato, avvolto nella penombra, anche il paesaggio che si estendeva davanti ai suoi occhi. E lei era sola, proprio come nei suoi sogni, e il terrore era venuto a tenerle compagnia, rannicchiandosi al suo fianco, pronto tanto a farle festa quanto a balzarle addosso. Tutto questo per un treno merci che procedeva faticosamente in salita. Che cos'era quel complotto di tenebra che instigava la sua stessa fantasia a tramare contro di lei? Che cosa ci facevano quei cacciatori implacabili intorno alla tetra e cingolante stazione di Paddington? Adesso, adesso, diceva la luna e si tuffava tra le nuvole verso di lei. Laura la fissò sconcertata e scosse la testa. Per un attimo le era sembrato di aver trovato il bandolo, ma le era di nuovo scivolato via fra le dita. Il treno, giunto in cima alla salita, si lanciò verso valle con uno stridulo grido di gioia. Laura sorrise. La divertiva pensare che fosse carico di cavoli. A Paddington i cavoli sarebbero stati smistati verso Covent Garden, ma inevitabilmente, con tutta la maestà del tempo debito, sarebbero giunti alla meta in Apsley Terrace. In pentola avrebbero perso ogni traccia del loro notturno maleficio per essere serviti, perfettamente puri e vegetali, a Harry e Caroline. Bello, bello, si disse, e cominciò a discendere la collina perché la notte era fredda. Il suo segreto le era nuovamente sfuggito, ma non se ne rammaricava. Sapeva che questa volta c'era arrivata più vicino che mai. Se era possibile svelarlo, l'avrebbe svelato lì prima o poi. Non c'era posto più adatto di Great Mope. Il paese era immerso nel buio, era andato a dormire presto, come si addice a un paese per bene. Solo la finestra di Miss Carloe era illuminata. Cara Miss Carloe, sarebbe rimasta sveglia anche tutta la notte pur di far mangiare al suo porcospino un po' di latte e pane. I porcospini sono animali notturni, vanno a zonzo quando si fa buio e grugniscono allungando il muso nero. 3 volte mi ha miagolato il gatto tigrato, 3 volte più d'una si è lagnato il riccio. Grida l'arpia, è l'ora, è l'ora! Trovò la chiave sotto il mezzo mattone ed entrò in casa senza far rumore. Solo il sonno era sveglio ad aspettarla nella casa silenziosa. Il sonno la prese per mano e la condusse su per la stretta scala. Laura si addormentò non appena posò la testa sul cuscino. Il giorno dopo gli avvenimenti di quella notte le sembrarono assolutamente normali. Era uscita in una sera di vento e aveva sentito il rumore di un treno merci. Non c'era niente di speciale in tutto questo. A Londra sarebbe forse stata un'avventura degna di nota, ma sulle Chiltern Hills non aveva la minima importanza. Eppure le restava una strana sensazione rispettosa, come se quella notte le avesse impartito un ordine che aspettava di essere interpretato e obbedito. Laura ci rifletté, cercando di trovare un senso a quello che le era successo. Se davvero si trattava di un indizio, conduceva a Paddington. Fece quello che poteva, scrisse a Caroline invitandola a trascorrere una giornata a Great Mope. Non era affatto convinta che fosse l'interpretazione giusta, ma non le veniva in mente nient'altro. Gli uccelli cantavano tutti insieme mentre Laura scendeva per il sentiero verso la macchina di Caroline. Sembrava quasi estate, non avrebbero potuto scegliere giornata migliore. Caroline era prudentemente vestita di tweed. Quando sono partita da Londra pioveva, disse, lanciando un'occhiata severa all'abito di cotone di Laura. Ma davvero? Rispose Laura. Qui non ha piovuto affatto. Fece una pausa, scrutò attentamente il cielo azzurro. Non c'era nemmeno una nuvola. Forse pioverà più tardi, aggiunse. Caroline guardò a sua volta il cielo e disse: È probabile. La conversazione procedeva piuttosto faticosamente perché Laura non sapeva fino a che punto doveva considerarsi ancora in disgrazia. Chiese di tutti in tono un po' colpevole e si sentì raccontare quanto magnificamente stesse tutta la famiglia e che inverno piacevole e allegro avesse trascorso. Dopodiché fu la volta della distanza da Wickendon e dell'ora in cui partire. Nel programmare la giornata, Laura aveva deciso di tenere la chiesa per il dopo pranzo. In mattinata avrebbe mostrato a Carola il panorama. Gli aveva destinato più o meno un'ora e mezza, ma in realtà bastarono meno di 20 minuti. Quantomeno quello fu il tempo che impiegarono per arrivare a piedi al mulino a vento e tornare indietro. A Panorama non c'era stato bisogno di dedicare nemmeno un minuto. Era una giornata limpida e tutto quello che c'era da vedere si vedeva al primo sguardo. La tenuta di Caroline per le passeggiate in campagna era così ponderosa che Laura non ebbe cuore di trascinarla in cima a un'altra collina. Andarono invece a visitare la chiesa, iniziativa che riscosse maggiore successo. Caroline cadde in ginocchio e si mise a pregare. Laura ne approfittò per dare un'occhiata in giro, dal momento che quella era la prima volta che c'entrava. Era una costruzione molto stretta e le uniche finestre si affacciavano a sud, dandole l'aspetto di un sacro corridoio. Caroline rimase immersa in preghiera per qualche tempo e Laura ne approfittò, tanto che più tardi, guidandola lungo il corridoio, fu in grado di mormorarle: Quella finestra è una donazione del 1901. Lì nell'angolo c'è una bella targa d'ottone. Quella scultura è antica, rappresenta le vergini savie e le vergini stolte. Attenta al gradino. Una delle vergini stolte l'aveva colpita per il particolare realismo con cui era raffigurata. Se ne stava un po' in disparte dal gruppo e scuoteva una fiaschetta vicino all'orecchio. Durante il pranzo Laura ebbe l'impressione che anche la sua riserva di combustibile si stesse consumando rapidamente. Ma subito dopo mangiato arrivò un provvidenziale rifornimento. Quando una perfetta sconosciuta cade dalla bicicletta proprio davanti alla porta di Mrs. Slick, storcendosi una caviglia. Laura e Caroline balzarono in piedi per andare a soccorrerla. Seguirono impacchi freddi, tè caldo e tanto trambusto. La perfetta sconosciuta era la segretaria di un'associazione. Chiese a Caroline se non trovasse anche lei che Great Mope era un angolino delizioso e Caroline le diede cordialmente ragione. Andarono avanti a scoprire comitati in comune fino all'ora del tè. E poco dopo partirono insieme con la macchina di Caroline. Proprio mentre saliva sulla vettura, la cognata domandò a Laura se nel vicinato avesse incontrato qualche persona simpatica. No, non c'è nessuno di simpatico qui, rispose Laura. Intenta com'era a domandarsi se la bicicletta sarebbe rimasta ferma dov'era, appoggiata come niente fosse al collo dell'autista, si era addestrata un attimo prima del dovuto. Le sembrava che fosse stato il suo unico passo falso in tutta la giornata. Era un peccato, ma Caroline Se ne sarebbe presto dimenticata, forse non aveva nemmeno sentito, perché proprio in quel momento la segretaria stava parlando ad alta voce di case di riposo. Comunque era un peccato, se solo si fosse ricordata di Mr. Saunders, anche se lì per lì non sarebbe forse riuscita a descriverlo in modo soddisfacente. Si voltò e si incamminò a passo lento per i campi, verso l'allevamento di polli. Non poteva passare alla solitudine completa subito dopo la partenza di Caroline. E sarebbe tornata gradualmente, usando Mr. Saunders come stadio intermedio. Lo trovò che dava da mangiare i polli, passando da un recinto all'altro con una carriola di zinco e un gran mestolo di legno. Le galline gli svolazzavano intorno e lui doveva di continuo fermarsi a scacciarle come uno sciame di enormi moscerini. Di tanto in tanto ne afferrava una particolarmente riottosa e la ributtava nel pollaio come fosse una palla. Lora si appoggiò allo steccato a guardarlo. Quel giovanotto, che era stato impiegato di banca e aveva combattuto in guerra, camminava con l'incedere lento e disinvolto di un contadino nato. Sembrava possedere la terra ad ogni passo. Non c'erano dubbi che fosse come Adamo, e lei che lo guardava dall'alto, il campo declinava verso i recinti, lei era come Dio. Chissà se Dio, dopo aver cacciato gli angeli ribelli e prima di ritirarsi nella pace di un paradiso da cui era assente la contraddizione, aveva usato Adamo come stadio intermedio. Di ritorno verso la capanna, Mr. Saunders si accorse della sua presenza. Le si avvicinò e si appoggiò a sua volta allo steccato. Sebbene il sole fosse già tramontato, l'aria era ancora calda e una luce disincarnata sembrava pesare sul paesaggio come un fardello di sonno. Gli uccelli, che avevano cantato per tutto il giorno, cantavano ora più forte che mai. «Non è stata una giornata splendida?» disse Mr. Saunders. «È venuta a farmi visita mia cognata», rispose Lora. «Abita a Londra. I miei stanno tutti nelle Midlands», osservò Mr. Saunders. «O in Australia?» soggiunse dopo una pausa. Visto dall'alto, mentre camminava tra greggi e armenti, perché anche le galline, in virtù del loro rapporto con lui, sembravano elevate ad animali biblici, Mr. Saunders era una figura solenne, ma appoggiato allo steccato era un giovane semplice e simpatico, niente di più. Appena se lo fu lasciato alle spalle, Lora si dimenticò completamente di lui come si era dimenticata di Caroline. Caroline era un noioso moscone, Mr. Saunders una delicata falena dalle ali coperte di peluria marroncina. Lora poteva scuotersi di dosso con la stessa facilità, l'uno e l'altra. Dimenticò persino di aver invitato la falena a posarsi di nuovo per prendere il tè da lei. Fu per pura coincidenza che quel pomeriggio rimase in casa a preparare i dolci con le ovette. Per divertirsi, aveva tagliato l'impasto in tante figurine che somigliavano ai vari abitanti del paese. Durante la cottura avevano avuto luogo strane trasformazioni. Il porcospino di Miss Carlo si era gonfiato fino a diventare grande quasi quanto la sua padrona. La pasta era andata a ingrossarlo, lasciando un gran buco nel fianco di Miss Carlo. A Mr. Jones era cresciuto un grumo sulla schiena, come se portasse il cane nero in un sacco, e un estroso ritratto di Miss Larpe, da giovane, tutta elegante nelle vesti aderenti di amazzone impetuosa, si era deformato e contorto fino a somigliare più a un albero nodoso e pieno di spine che a una donna. Lora provò una punta di vergogna per quel suo capriccio. Non era bello scherzare così con i corpi dei vicini. Tuttavia, Mr. Saunders mangiò le strane forme senza commenti, tagliando i paesani a metà come se niente fosse e spalmandoli di burro. E raccontò che presto avrebbe perso l'aiuto del giovane Billy Thomas, assunto a Lazar Cour come cameriere. «Non credo che Billy Thomas farà una gran figura in livrea», osservò Lora. «Non è detto», rispose Mr. Saunders con aria pensosa. «È molto bravo a stare in piedi immobile». Lora, che si era portata a Great Mope, la sua coscienza di persona sensibile, proprio come si era portata l'ombrello, anche se fino a quel momento non si era ricordata di usare né l'uno né l'altra, improvvisamente sentì la sua coscienza dar segni di vita. Mr. Saunders era così amabile, aveva mangiato tutti quei dolci beffardi con l'innocente convinzione che fossero stati preparati per lui. Era arrivato portando all'indono le sue uova, tutto gentilezza e attenzioni, mentre lei si era persino dimenticata che esisteva. E ora si stava alzando per andarsene, non senza ringraziarla, preoccupato di essersi fermato troppo a lungo. Si era comportata in modo indegno con quel giovane così umile e dignitoso. Doveva fare qualcosa per compensare la mancanza di riguardo con cui l'aveva trattato dentro di sé. Si offrì come sostituto del giovane Billy Thomas, finché Mr. Saunders non avesse trovato qualcun altro. «Non so niente di galline», ammise. Ma gli animali mi piacciono moltissimo e poi sono molto obbediente. Si accordarono perché Lora si presentasse il giorno dopo per badare alle incubatrici e per vedere se il lavoro le piaceva. Sulle prime, Mr. Saunders non le permise di far altro che accompagnarlo sulle assi allineate in terra apposta perché lei non si infangasse, tracciare un segno a matita sulle uova e prendere il tè a lavoro finito. Ma Lora si presentava sempre tanto puntuale, mostrava un tale entusiasmo che con il passare del tempo riuscì a persuaderlo ad affidarle qualche incarico più consistente. C'era molto da fare in quel periodo dell'anno. Le incubatrici avevano portato a termine il loro compito. Lora imparò a prendere i pulcini appena usciti dall'uovo, bagnati e quasi esanimi per lo sforzo di venire al mondo, e a metterli nei canestri. Poche ore dopo erano grassi e soffici. Nei cesti foderati di musco sembravano mazzi di primule. Oltre a far da mamma ai pulcini, Mr. Saunders era occupato in una risistemazione generale delle galline più vecchie. L'operazione si svolgeva dopo il tramonto, perché a quell'ora i polli erano assonnati e più trattabili. Se li si trasferiva di giorno, si rivoltavano e tornavano subito alla loro precedente dimora. Ma anche così c'era sempre qualche gallina proterva che si appollaiava poco convinta tra i nuovi venuti o restava sconsolata davanti alla porta sbarrata della sua vecchia casa. Il giro serale era quello che Lora preferiva. I crepuscoli di aprile erano meravigliosamente acerbi e quieti. Una luna sottile saliva nel cielo verde pallido. La folta erba primaverile era carica di rugiada e la terra si oscurava intorno ai suoi piedi, mentre sopra di lei l'aria era ancora luminosa. Mr. Saunders spariva nel pollaio, si sentivano schiamazzi di protesta e un gran tafferuglio, dopodiché riemergeva portando una gallina sotto ciascun braccio. Mostrò allora come tenerle, il petto appoggiato alla mano, le ali strette fra le braccia e il fianco. Lei accarezzava quei petti caldi, caldi e sotto le penne morbide inaspettatamente irti dei loro rigidi fusti, e faceva versetti rassicuranti. All'inizio era sempre sulle spine mentre reggeva quello strano fardello. Era ora così docile e inanimato, ora così bisbetico, che si dibatteva dopo aver liberato le ali robuste. Ma per quanti polli Mr. Saunders portasse, riusciva sempre a prenderle dalle braccia anche i suoi. Immediatamente l'uccello bizzoso si calmava, domato dalla stretta forte e sicura, e diventava mite come una colomba, con le zampe che penzolavano rigide e la testa che si voltava tristemente a guardare da un lato all'altro. Lora non divenne mai abile come Mr. Saunders, ma superato il nervosismo iniziale, acquistò una certa dimestichezza che le permise di trarre da quell'occupazione un notevole diletto. Le galline si accoccolavano contro il suo fianco e si tenevano strette all'incavo del suo gomito, mentre le sue dita si immergevano a esplorare le soffici penne e i rigidi fusti sul loro petto. Le piaceva avvertire la loro remissività, la loro fiducia in lei. Si sentiva saggia e potente. Le venne in mente la donnina delle uova nelle favole. Ora capiva perché re e regine ricorrevano a lei quando erano in difficoltà. La donnina delle uova teneva il loro destino nell'incavo del gomito e covava il futuro nel grembiule. Era sorella dell'indovina e prima cugina della strega, ma praticava le sue arti dietro il paravento del pollaio. Diversamente dalla sorella e dalla cugina, non era una professionista. Viveva umilmente ai margini del giardino del re e indossava un ampio grembiule bianco e molto probabilmente il berretto del marito. E quando vedeva il re e la regina che avanzavano sul viottolo di ghiaia, si inchinava rispettosamente e fingeva di credere che fossero venuti a prendere le uova. Lei era più accessibile dell'indovina, che se ne stava sul suo sgabellino a fissare la torba ardente finché gli occhi le diventavano rossi e abbacinati, o della strega che viveva da sola nel bosco in una casetta con le finestre coperte dai rovi. Ma anche se fingeva tanta semplicità, le sue doti non erano per nulla inferiori a quelle delle professioniste, né la finzione era poi così semplice come poteva apparire. Lora aveva sentito dire che le streghe rosse vivevano in una capannuccia montata su tre gigantesche zampe di gallina, gialle e squamose, che potevano camminare. Così, quando la strega voleva spostare la sua casa, le zampe avanzavano sicure nella foresta, sbattendo contro gli alberi e imprimendo lunghe cicatrici nella neve. Seguendo Mr. Saunter su e giù per i pollai, Lora dimenticava quasi chi era e dove si trovava. Aveva completamente amalgamato la sua personalità con quella della donnina delle uova. Tornando in paese, camminava inconsapevole sui solchi del sentiero. e scendeva per il viottolo ripido come se volasse a casa a cavallo di una scopa. Aiutò Mr. Saunders per tutto il mese di aprile e rincrebbe a entrambi quando un nuovo ragazzo si presentò per avere il posto e le mansioni di Laura si conclusero. Giunta alla fine di quel sodalizio, non conosceva Mr. Saunders meglio di quanto lo conoscesse al principio e non si poteva nemmeno dire che a quel punto lui le piacesse di più, dato che le era piaciuto moltissimo sin dal primo incontro. Il tempo le aveva confermato quella simpatia, tutto qui. Anzi, gliel'aveva confermata così saldamente che si sentiva del tutto libera di andarsene e dimenticarsi di nuovo di lui, sicura di ritrovarlo amabile ed amato come sempre ogni qualvolta avesse deciso di rivederlo. Durante i suoi primi mesi a Great Mope, gli umori della campagna d'inverno e il rinascere della primavera le erano parsi così suggestivi da farle pensare che non potesse esistere stagione più varia e deliziosa. Aveva anche scritto a Titus una lettera vagamente ricercata. Per qualche ragione la corrispondenza con Titus richiedeva sempre una certa applicazione, in cui si dichiarava convinta che il culto per i mesi estivi denunciasse un'ottusità tipicamente cookney, un gusto per le melensaggini e una predilezione per l'erba secca come ricettacolo dei gusci delle uova sode. Ma quando arrivarono le prime giornate estive e cominciarono a comparire le primule odorose, dovette ricredersi. Si aspettava le primule in maggio, se le era promesse fin dal giorno in cui per la prima volta aveva pensato a Great Mope. Aveva progettato di trovarle appena fossero comparse e di stare a guardare i boccioli gialli aprirsi sui gambi verdi e lattiginosi. Ma loro l'avevano anticipata oppure le aveva tenuto d'occhio i campi sbagliati. Il prato su cui camminava era tutto un fiorire di primule che punteggiavano l'erba in quantità variabile. Qui sparse, la radunata a mazzi, incalcolabili come le stelle nella Via Lattea. Si inginocchiò tra i fiori e chinò il viso verso il loro profumo. Per un momento il peso di tutti i suoi anni infelici sembrò gravarle sul petto fin quasi a schiacciare la terra. Laura tremò, comprendendo per la prima volta quanto aveva sofferto. Un attimo dopo era libera. Era tutto passato. Non poteva più succedere e non era mai successo. Lacrime di gratitudine le rigarono il volto. A ogni respiro il profumo delle primule entrava in lei e la affrancava. Era cambiata e lo sapeva, era più umile, più semplice. Smise di trionfare mentalmente sui suoi tiranni e di rinconarsi con la consapevolezza dell'affronto che aveva fatto loro trasferendosi a Great Mope. Il divertimento che aveva tratto dalla loro disapprovazione era l'ultimo residuo della sua vita da schiava, la sua danza beffarda sulla sponda settentrionale dell'Ohio. Perdonarli era fuori questione, e comunque lei non aveva una natura incline al perdono, né loro erano responsabili dell'offesa che le avevano arrecato. Se avesse dovuto mettersi a perdonare, c'erano anche la società, la legge, la chiesa, la storia d'Europa, il Vecchio Testamento, la propria zia Salomè con il suo libro di preghiere, la Banca d'Inghilterra, la prostituzione, l'architetto di Apsley Terrace e una mezza dozzina di altri capisaldi della civiltà. No, poteva solo continuare a dimenticarli. Ora però era in grado di farlo senza che dimenticare fosse per lei un modo di schernirli. Per tutto maggio e giugno e per la prima metà di luglio visse in uno stato di ozio e soddisfazione perfetti, coprendosi ogni giorno di più di lentiggini e radicandosi sempre più nella pace. Il 17 di luglio venne disturbata da un alito del mondo. Arrivò a trovarla Titus. Le fece uno strano effetto sentirsi di nuovo chiamare zia Lolly, non che Titus usasse spesso quel termine. Lì si rivolgeva agli amici e ai parenti di tutte le età chiamandoli mio caro o mia cara, ma di tanto in tanto gli scappava anche uno zia Lolly. Non ci fu bisogno di far visitare a Titus l'interno della chiesa, non ci fu neppure bisogno di portarlo su al mulino per mostrargli il panorama. Fece tutto da solo e si sbarazzò del pensiero prima di colazione, perché Titus fece colazione a Great Mope per 3 volte. Era venuto per restare un giorno, ma era troppo entusiasta per ripartire. Ormai era padrone di se stesso. Abitava a Bloomsbury e non doveva neppure mandare un telegramma per avvisare che non sarebbe tornato. Mrs. Garland, che prendeva pensionanti per l'estate, poté offrirgli una camera piena di puntaspilli, maggiolini e fotografie di marine. E Mrs. Trumpet gli mise a disposizione tutta l'esperienza che lui le richiese nella scelta di uno spazzolino da denti. Per 3 giorni Titus e Laura si sedettero vicini qua e là e lui le parlò della sua intenzione di dedicarsi immediatamente alla fabbrica di birra. Si era rifiutato di partire per l'Italia con sua madre e aveva respinto le offerte lusinghiere di numerosi editori, perché la fabbrica di birra lo attirava più di qualsiasi altra cosa al mondo. Quella, disse, era la sua ultima notte da scapolo. Tornato a Bloomsbury, aveva intenzione di affittare le sue stanze a un affabile maomettano per darsi all'apprendistato nella fabbrica di famiglia finché non avesse imparata tutta l'arte. Lora gli diede molti messaggi per Lady Place. L'aveva davanti agli occhi nella luce del primo mattino. Ricordava esattamente l'odore degli arbusti, sua madre che attraversava leggera il campo da croquet, la voce di suo padre che chiamava i cani. Vedeva anche se stessa come era allora, perché quella che era adesso non aveva niente a che fare con quel posto. Non pensava che ci sarebbe mai tornata, anche se era contenta della fedeltà di Titus. Titus ripartì. Le scrisse una lettera da Bloomsbury dicendo che aveva concluso un buon affare con il maomettano ed era in procinto di andare nel Somerset. 10 giorni dopo, Sibyl le fece sapere che Tito stava per trasferirsi a Great Mope e prima che Lora avesse il tempo di mettere ordine fra le sue emozioni, lui era già arrivato.